Noi in questa guida abbiamo provato un po' a raccogliere, come dire, quello che abbiamo imparato da questo lavoro di debunking, perché crediamo che bisogna uscire dal fact-checking molto tecnicistico, molto preciso su ogni singolo argomento che di solito viene praticato. Cioè, pensiamo che la possibilità di accorgersi che ti stanno raccontando una narrazione tossica debba essere a disposizione di tutti e che chi chiunque possa rendersi conto che gli stanno raccontando qualcosa che non è vero o che è raccontato in modo assolutamente unilaterale. Il caso, per esempio, di Giuseppina Gersi. Noi abbiamo visto i principali giornali italiani, tra cui il Corriere della Sera, eccetera, riprendere paro paro, ma proprio bersela come acqua fresca, quello che riportavano dei blog neofascisti. Ma proprio roba che non stava in piedi, che soltanto guardando con attenzione i video che questi postavano non stava in piedi. Questi l'hanno ripresa perché non è che servivano specifiche competenze storiche, dovevi essere uno storico della resistenza e della violenza post bellica per renderti conto che quella storia che ti stavano raccontando era unilaterale, faticava a stare in piedi, eccetera. Perché non si sono posti alcune semplici domande. Chi mi sta raccontando questa cosa? Con che scopo? A chi si sta rivolgendo? Ci sono o non ci sono delle fonti? Quali fonti sono? Chi le ha conservate? Sono domande, in fondo, semplici e ovvie, che però bisogna essere abituati a porre, mentre in questo paese molto spesso si è abituati ad esprimere dei giudizi di merito e delle profonde lucubrazioni pseudo-filosofiche sulla legittimità o meno della violenza, la natura umana, la cattiveria del mondo, eccetera, eccetera. Mentre invece occorrerebbe prima porsi queste semplici domande invece che divagare tanto. Quindi avere la conoscenza minima di come funziona la ricerca storica, non diventare dei ricercatori storici, avere la conoscenza minima di come funziona. Sapere, oppure, altro caso, saper distinguere quello che è un libro di storia che presenta le sue fonti, le note, la bibliografia, da una massa di voci incontrollate, cucite insieme malamente come il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa. Eppure in questo paese per mesi, per anni, non si è parlati d'altro che di Giampaolo Pansa e del suo libro, con tutti quanti pseudo-intellettuali di sinistra che facevano a gara a chi era più tollerante a dire che Pansa aveva il diritto di parlare. Il problema non è se aveva il diritto o meno di parlare, il problema è che quello che diceva non aveva basi, non aveva riscontri. Il fatto è che questo ha preso pura e semplice la pubblicistica neofascista e ha fatto copia e incolla. Occorre affrontare questo nodo e quindi rendere consapevole il maggior numero di persone possibili riguardo come funzionano determinati meccanismi. Sono esercizi semplici, tant'è che qui consigliamo anche alcuni semplici esercizi didattici addirittura. Cose base. Il punto è che entrare in quest'ordine di idee richiede un passaggio che è anche quello alla base del lavoro su Wikipedia, cioè capire che il mondo è un luogo di conflitti, che non esiste, che il punto finale non è arrivare né al punto di vista neutrale, come lo chiamano su Wikipedia, né alla memoria nazionale condivisa, come ce l'hanno fatta passare da fine anni 90 in poi le principali forze politiche di questo paese, che il mondo è inevitabilmente un luogo di conflitti. Quando io sono consapevole di questo, ho la criticità necessaria per rapportarmi con un'informazione perché mi domando da che parte sta quello che me la pone.